Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ci siamo, grazie a tutti per l'attenzione, grazie a Luca Giulio per la regia. L'appuntamento rimane rinnovato, ma ahimè ci mandano una breve pensione per domenica prossima, a domenica 2 giugno, domenica prossima a quanto sembra saremo relegati al silenzio, buon Border Trophy, si dice così, grazie a tutti. Salve a tutti.